Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunti in regia per questa puntata di A Tempo di Sport, nella quale l'argomento principale non può che essere quello della Formula 1, cui dedicheremo per intero la seconda metà del nostro programma. Anzi, se volete prenotatevi già per gli interventi 800 24 00 24, perché di cose da dire ce ne sono e ce ne saranno molte oggi, domani e ho l'impressione nel corso di tutta la stagione motoristica. Parleremo anche di Nazionale, di magari di Cassano, comunque certamente dell'impegno di questa sera con il Montenegro. Avremo il punto sulla pallavolo di Andrea Zorzi, ma cominciamo subito dal rugby perché il campionato è tornato. Palla ovale. Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio anche agli ascoltatori. Cos'è successo oggi? Ma oggi c'era la seconda giornata di ritorno, è finito il letargo del campionato italiano Super 10, che come succede di solito si ferma per ben due mesi in occasione delle Sei Nazioni. Le squadre sono tornate a giocare su ritmi un po' lenti, in un certo senso un po' come se la stagione cominciasse per una seconda volta. E questi sono i risultati: Almaviva Capitolina, Montepaschi Viadana 32-35, Carrera Petrarca Padova, Overmac Cari Parma 26-35, Cammi Calvisano, Femici Zeta Rovigo 25-9, Plus Valore Gran Parma, Futura Park Roma 19-25. Domani si gioca il posticipo tra Casinò e Benetton che è stato raggiunto al secondo posto in classifica momentaneamente proprio dall'Overmac Cari Parma, che domenica scorsa si era aggiudicato la Coppa Italia battendo in finale il Casinò Venezia. In testa rimane il Montepaschi Viadana, che ha fatto 5 punti a Roma, rischiando però forse un pochino nel secondo tempo con l'Almaviva dopo aver dominato il primo tempo concluso sul 32-6, e in coda ci sono 5 squadre che lottano per evitare l'ultimo posto. La Capitolina è riuscita a fare, pur perdendo, 2 punti, e invece il Carrera Petrarca Padova, sconfitto in casa dal Parma, a questo punto è in zona retrocessione. Giacomo, però questo è il presente, un campionato che torna, ma la notizia della settimana è la missione italiana ufficiale alla Celtic League, non dalla prossima stagione quando avremo ancora campionato, ma da quella successiva. Qual è lo scenario in questo momento? Ma sì, diciamo che la missione c'è stata a livello di disponibilità, quindi il board della Celtic League, che ricordiamo è questo campionato che raggruppa 4 selezioni gallesi, 4 irlandesi e 2 scozzesi, ha detto che è disponibile ad accettare 2 formazioni italiane a partire dalla stagione 2010-2011. Sappiamo che ci sono già diverse candidature di franchigie italiane o di, anche nel caso del Treviso, di un club che vorrebbe praticamente partecipare a titolo individuale. Ci sono una candidatura romana, una che coinvolge Roma ma più in generale il centro-sud, una candidatura di Calvisano e Brescia ed una candidatura diciamo proprio legata al Po, tant'è vero che questi aironi del Po sarebbero una franchigia che metterebbe insieme Viadana, Colorno e Gran Parma. Però diciamo che adesso i giochi si aprono ufficialmente, si aprono per quanto riguarda la scelta delle franchigie, che naturalmente verrà fatta anche in ordine ai desideri della federazione, e naturalmente però bisognerà riuscire a dare tutte quelle garanzie che il board della Celtic League ha chiesto per entrare: garanzie di tipo logistico, di tipo finanziario, organizzativo, mediatico. E naturalmente importante, secondo i nostri nuovi avversari, anche avere delle garanzie di tipo tecnico, perché sicuramente in questo momento l'Italia, uscita male dal Sei Nazioni, tante di queste garanzie non le può dare. Certo. Sicuramente il fatto di cominciare nel 2010 anziché nel 2009, come si sperava, potrebbe per alcuni versi essere un vantaggio. Ci potrebbe essere il tempo per radunare veramente i giocatori italiani più interessanti, sperando nella conclusione del contratto di alcuni dei migliori, certo, che giocano all'estero, e naturalmente sperando di individuare nuove leve che stanno arrivando, certo, e che in parte si sono messe in luce anche nel Sei Nazioni. Quindi c'è un anno di tempo, un po' di ritardo, però bisogna lavorare da subito e soprattutto lavorare bene per sfruttare fino in fondo questa chance e non vivere altri Sei Nazioni come l'ultimo che abbiamo vissuto. Grazie Giacomo Bagnasco. Dunque chiudiamo qui la parentesi sul rugby, poi andiamo di corsa perché abbiamo il calcio, abbiamo la pallavolo e abbiamo soprattutto la Formula 1 nella seconda parte del nostro programma. Numero verde per intervenire, lo ripeto se volete, 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666. Le croci di Lippi, il titolo dell'articolo che compare oggi sulla stampa, lo scrive Marco Ansaldo da Podgorica, dove giocheremo questa sera con il Montenegro. Marco, buongiorno. Ciao Marco, innanzitutto com'è il tempo da quelle parti? Ma adesso il cielo è coperto, insomma non è una giornata bellissima, però insomma... Non è proprio un posto di vacanze, insomma. Non è vero, no. Lo contesto, invece penso che potrei anche venirci. Davvero? Poi mi dai qualche dritta. Senti Marco... Al vantaggio che costa poco, insomma, è buono per le nostre finanze dopo l'ultimo contratto dei giornalisti. Bravissimo, il posto che fa per noi, caro Marco. Esatto. Senti, parliamo delle croci di Lippi. In questa settimana abbiamo sprecato, usato se vuoi, fiumi d'inchiostro per parlare degli assenti di Cassano che non c'è. E che Lippi ieri ha detto ogni CT ha la sua croce, giusto così. Secondo me Lippi ha ragione su quasi tutti i fronti meno uno, quello di non voler spiegare le ragioni per cui non convoca il giocatore di Bari. Avrei scommesso la casa sul fatto che non avrebbe convocato in vista della partita di Bari, perché una cosa del genere Lippi non l'ha mai fatta. Però dovrebbe, proprio per evitare strumentalizzazioni, dire perché non lo chiama. Che problema c'è? Ma guarda, io conosco Lippi per lavoro dal 94, quando arrivò alla Juventus. E devo dire che lui è sempre stato così, cioè lui non è l'allenatore didascalico che spiega le cose anche ai giornalisti, che magari fa capire il perché, il per come di certe cose, che a volte li aiuterebbe anche a crescere. Lui non l'ha mai fatto, ritiene di non dover mai spiegare niente a nessuno, e questo fa parte del suo personaggio, del suo modo di pensare, insomma. Ieri ha spiegato in conferenza stampa che lui ritiene, siccome ha una pessima considerazione del mondo del giornalismo globalmente e pensa sempre alle conseguenze di quello che fa e quello che dice, lui sostiene che se avessero spiegato il perché non ha chiamato Cassano, probabilmente poi si sarebbe data la stura a una serie di discorsi, di chiacchiere ancora più devastanti di quelle che invece ci sono state nei giorni scorsi. E questa è una sua idea, purtroppo non possiamo cambiargliela. Anch'io sono dell'idea che se lui avesse spiegato le ragioni per cui Cassano non è qui, probabilmente la vicenda si sarebbe circoscritta nei tempi e nei modi, a meno che poi invece le ragioni per cui non chiama Cassano siano delle ragioni così clamorose, sì, che certo, avrebbero creato certo veramente un caos. Io considero comunque legittimo il fatto che un allenatore scelga di non tirarsi in casa tutto il circo che Cassano porta con sé, che è un circo mediatico, che è un circo molto colorato, insomma. Ma sì, anche se poi in fondo Cassano l'abbiamo visto all'Europeo, il circo poi si è limitato ai primi tre giorni, dopodiché sì, certo, Cassano è passato nell'ombra come tutti gli altri. Il problema vero è questo: serve Cassano oppure no? Io credo che questa sia una nazionale che sta perdendo sempre più talento. Vero, nel senso che vero, i giocatori di una generazione che avevano talento, i Totti, Del Piero, eccetera, eccetera, sono spariti, e quelli che ci sono adesso sono giocatori alla Iaquinta, che sono magari anche a volte più utili, però sicuramente non accendono la fantasia. Cassano è l'erede, come del resto ha detto anche Buffon, di quella generazione lì. Adesso si tratta di capire se la nazionale italiana serve quel tipo di giocatore lì oppure no, tenendo conto comunque che il signor Cassano sta andando verso i 27 anni e non ha ancora dimostrato nulla. Esatto, questa è la realtà. Questa è la realtà, che non è esattamente così. Una nazionale diversa dalle altre, però una nazionale che ricalca un po' la prima Juventus di Lippi, con questi tre davanti disposti al sacrificio per la bandiera, no? Con tre punte di corsa e lotta. Ma guarda, ti dirò che questa nazionale, poi per carità, io credo che con Montenegro qualunque nazionale debba funzionare. A me interessa molto, intriga abbastanza questa nazionale, non solo per il tridente made in Udine, anche se Quagliarella non c'era quando c'erano Di Natale e Iaquinta, ma comunque il meccanismo più o meno rimane lo stesso. A me interessa molto questo centrocampo, a dire la verità. Ci sono tre giocatori che nei loro club fanno i registi, Pirlo, De Rossi e Palombo nella Sampdoria, che si trovano a Reggio del centrocampo. Se non altro non potremmo dire che non abbiamo un centrocampo di organizzatori questa volta. Certo. E vediamo che come funzionerà. A me devo dire che una cosa ti piace l'idea di vedere questa sera la partita con questi tre, poi magari sarà un flop epocale e andremo a massacrarli, ma insomma in partenza mi piace. Sì, con Pirlo che tra l'altro torna all'antico, no? Dovrebbe giocare più avanti, dietro le punte, più da suggeritore, più avanzato. Ma questo non lo so, io spero che torni all'antico nel senso del Pirlo del 2006, esatto. Non quello che stiamo vedendo nel Milan. Stagione pessima quella di Andrea Pirlo nel Milan, in effetti. Marco, ancora questo, su un punto Lippi ha ragione da vendere. In piena Torre di Babele, in piena globalizzazione, in pieno tutto quello che vuoi, ci troviamo il serbatoio, quindi il futuro disegnato da un under 21 talentuosissima. Questo rimane misterioso, il fatto che si riesca ad avere un under 21 di questo livello in una situazione come quella del calcio non solo italiano ma mondiale. Questo è vero, anche se poi non mi sembra che l'Under 21 recentemente abbia fatto sfracelli anche nell'ultima partita, quindi sai, quando Lippi dice abbiamo un Under 21 come non ha nessuno al mondo, vorrei presentargli l'Argentina e il Brasile, sì, e vedere come sono le loro Under 21, perché sai, poi noi siamo quelli abbiamo gli arbitri migliori al mondo, ce lo diciamo noi, poi magari ce lo diciamo da soli, le cose sì. Non stanno. Le cose, noi siamo molto bravi a dire che abbiamo le cose migliori al mondo, e non parlo solo dello sport ma anche magari della politica, e poi bisognerebbe avere la controprova. Detto questo, abbiamo un Under 21 di gente talentuosa, abbiamo sicuramente ancora dei giovani molto bravi. Io credo, ad esempio, che l'arrivo di Motta, che non è nell'Under 21 anche se potrebbe esserlo, è qui con la nazionale, e di Santon, sia veramente un qualcosa di bello per il futuro della nazionale, che ormai in difesa era ancorata su vecchi personaggi, mentre invece ha questi due ragazzi che a mio avviso potrebbero già essere la coppia dei fini di fascia del prossimo mondiale. Conoscendo così bene Marcello Lippi, secondo te li potremo vedere ai mondiali, considerata età, esperienza e tempo che manca? Secondo me li potremo vedere nei 23. Che poi magari giochino titolari non lo so, ma ti dico, tra il Motta che ho visto nella Roma nelle ultime partite e il Zambrotta che ho visto nel Milan, secondo me non c'è una grande differenza, e Santon è sicuramente un ragazzo che sono molto più vecchio dei suoi anni nel gioco, così come Bergomi quando andò ai mondiali di Spagna. Grazie Marco, buon lavoro e portami gli indirizzi del Montenegro. Grazie davvero, ciao Marco. Grazie a Marco Alsaldi, inviato della Stampa. Adesso sono le 17:25, sapete cosa succede, no? È il momento di Andrea Zorzi, della finestra sulla pallavolo. Sono iniziati i playoff, anche se con una formula un po' strana, perché ci propone gara 1 e 2 dei primi due confronti, quindi gara 1 e 2 degli altri due confronti del tabellone, tutti in omaggio alle finali di Champions League che ci aspettano. Però lasciamo la palla ad Andrea Zorzi, ci pensa lui, il segno di Zorro. Zorro, il segno suo è la zeta. Il segno di Zorro. Buon pomeriggio a tutti da Andrea Zorzi e ben ritrovati su Radio 24. Giovedì sono iniziati i playoff numero 28 della stagione del volley. Si è giocato gara 1 tra Macerata e Treviso, vinto Macerata 3-0, e tra Trento e Vibo Valentia, vinta con tante difficoltà dai trentini per 3-2. Oggi ne parliamo con un graditissimo ospite, Valerio Vermiglio, benvenuto a Radio 24. Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie. Allora, una bravissima presentazione. Valerio Vermiglio, 33 anni, messinese, padre di uno splendido bambino, capitano della nazionale italiana, ha vinto 2 oro europei, un argento olimpico ad Atene, 5 scudetti, 2 Champions League, 5 Coppa Italia, altre coppe. Ho dimenticato qualcosa, Valerio? No, però diciamo di sì, ma sono belle dimenticanze. Prima di passare al commento della partita di ieri di gara 1, se ti va, Valerio, faremo un salto indietro all'ultima giornata, nel quale si è pensato che, poiché Treviso era qualificato all'ottavo posto, voi, Macerata e Trento, abbiate giocato anche per evitare il quarto di finale con Treviso che, seppur ottava, è una squadra un po' pericolosa. Qual è la tua opinione a proposito? Guarda, dal nostro punto di vista non è stato sicuramente una partita in cui abbiamo cercato di evitare Treviso, anche perché volevamo portare a casa il primo posto, continuare il nostro livello, fare una buona partita perché ci mancava un giocatore importante come Omerci, quindi dal nostro punto di vista non era fatta per evitare Treviso. Al contrario invece Trento niente me ne voglia nessuno, però ha dato dimostrazione di non voler a tutti i costi incontrare Treviso. Sai che ha stato pubblicato su YouTube un video della partita tra Trento e Martina Franca, scomparso dopo poche ore, in cui sembrava evidentissimo, inequivocabile, che Trento in qualche modo ha volutamente perso per evitare Treviso. Questo così è sembrato a tutti, sì. Senti, allora passiamo alla gara 1. È sembrato che voi abbiate vinto 3-0, soprattutto tenendo in mano il pallino del gioco. Beh, noi siamo stati bravi comunque a tenere alto il livello di gioco, pur stando sotto, pur in momenti di pari punto, perché loro hanno giocato una buona pallavolo e per noi era importante, ed è importante, fondamentale, tenere alto un certo livello, perché se no siamo alla portata di tutti e perdiamo contro tutti, anche perché di fronte abbiamo una squadra di grandi campioni comunque. Ma tu ritieni che Treviso sia pericolosa più per la sua storia che per l'attuale condizione? Ma sicuramente la storia gli dà modo di non morire mai, questo sì. L'attuale condizione, comunque, se facciamo una valutazione rispetto a come sono stati durante il campionato, mi sembra che siano sicuramente migliorati, e non di poco. E per quanto vi riguarda, l'impressione dall'esterno è che siete molto regolari, avete sopportato le sconfitte, non avete mai perso la Trebisonda e continuate a giocare con molta continuità, soprattutto molto uniti. Sì, è la nostra forza, comunque, di un gruppo che singolarmente potrebbe non eccellere in tutti i ruoli, ma che che insieme fa la differenza e può fare la differenza, si dà una mano nelle cose che non vanno e cerca di spingere su quelle che vanno in base alla giornata e a quelle che sono le condizioni. È un gruppo che vuole imparare sempre e che è riuscita a imparare tanto dalle sconfitte e dai momenti difficili di quest'anno. Tu sei cresciuto a Treviso, qual è il tuo rapporto con i tuoi ex compagni di squadra? Ma è un rapporto buono, un buon rapporto, come tra quasi tutti gli ex compagni che hanno condiviso cose importanti. Normale che c'è con chi hai condiviso di più, con chi hai condiviso di meno, chi ride di più, chi ride di meno, anche quando ti trovi da avversario, perché nel momento partita sicuramente non puoi star lì a fare lo stupido, non è giusto, non sarebbe giusto nei confronti di chi ti trovi di fronte, come rispetto. Io lo reputo dal mio punto di vista, da parte mia, buono. Da 2 anni ti alleni con Fafè De Giorgi, che è un tuo pari ruolo, è stato un grande palleggiatore. Com'è avere questo rapporto preferenziale col proprio allenatore, che sa bene come si fa a palleggiare? Beh, è sicuramente una cosa importantissima, può essere anche una spada di Damocle, perché in alcuni momenti potrebbe anche risultare che lui gestisca meglio e abbia gestito meglio situazioni in cui tu adesso ti trovi, però devo dire che lui non dà modo di dimostrare l'eventuale maggiore esperienza da quel punto di vista e ti mette nelle condizioni di essere in un rapporto paritario e quindi di poter lavorare bene insieme e soprattutto darti la mano. Beh, cambiamo discorso, ci facciamo un po' i fatti degli altri. Trento, come si diceva, ha cercato di evitare a tutti i costi Treviso, adesso con Vibo, ma ha rischiato moltissimo nel quinto set, perdeva 14-10, poi è riuscito, grazie a una straordinaria prestazione di Kaczynski, a recuperare. Tu dici che questa vittoria sul filigrana potrebbe essere la chiusura di questa serie e che adesso per Trento sarà più facile? Ma secondo me niente levando a Vibo, anche se giocheranno in casa in un palazzetto che sarà caldo e importante. Ieri hanno avuto un'occasione molto, molto ghiotta per tenere la serie molto aperta. Trento ha faticato e adesso sicuramente sarà sempre più forte delle sue condizioni, quindi la vedo molto sbilanciata fuori di Trento adesso. E adesso guarda, 2 commenti o pronostici secchi. Il primo è per domani, gara 2, andate a Treviso, e poi settimana prossima semifinale con Trento di Champions League a Praga. Beh, per domani io dico un tie break. Un quinto set a favore di chi, non lo so, di chi giocherà meglio. E a Praga? A Praga, anche là, vedo una semifinale molto, molto tirata, e chi sarà più regolare vincerà, però non voglio sbilanciarmi sia per Cabala che perché non è il mio modo di essere. Quindi equilibrio, battaglia. Valerio, ci fai una promessa che a fine campionato, indipendentemente dal risultato, torni a trovarci, così si parla di chi ha vinto, di nazionale e di tante altre cose. Certo, volentierissimo. Allora, grazie Valerio, vi saluto anch'io, noi ci sentiamo sabato prossimo alle 17.25 su Radio 24. Ecco il segno di Zorro, adesso ci fermiamo un attimo e poi apriamo la seconda parte del nostro programma, che sarà dedicata alla Formula 1, all'Australia, ai... come si chiamano, che non mi ricordo più, quegli affari sotto l'alettone. Eccoci tornati, arriviamo all'argomento principe di questo weekend, Formula 1, Formula Casino, come qualcuno l'ha ribattezzata, non senza ragione, per la verità. Allora, primo Gran Premio dell'anno, questa è la griglia di partenza, in prima fila chi non ti aspetti, e cioè le due neonate Brown, Jenson Button e Rubens Barrichello, quindi seconda fila per Vettel su Renault e per Kubica sulla BMW, terza fila per Rosberg e Massa prima delle Ferrari, quarta Raikkonen e Webber, quindi Heidfeld e Alonso in quinta fila, sesta Nakajima e Kovalainen, in settima Buemi e Nelsinho Piquet, in ottava fila Giancarlo Fisichella e Sutil, in nona Bourdais e Hamilton. Avete capito bene, nona fila, Hamilton ha cambiato il cambio, doveva partire dall'ultima fila, ma in ultima fila ci saranno le due Toyota. Ricorso accolto, penalizzazione per Glock e Trulli che andranno appunto sull'ultima linea dello schieramento. Intanto la Williams aveva preparato un ricorso contro la Ferrari per alettoni irregolari, poi ha deciso di non presentare questo ricorso, quindi ha fatto retromarcia e di conseguenza rimane la griglia di partenza così com'è vi ho detto. Poi il 14 di aprile ci sarà il giudizio su questo Gran Premio ancora da correre per la vicenda degli estrattori di Brown, Toyota e Williams. Basta così? Lo chiedo a Mario Poltronieri, che sarà più che mai la mia guida in questa stagione della Formula 1 che si annuncia difficilissima. Mario, buonasera. Beh, un po' complicata. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, effettivamente è proprio, come diceva Lauda, un grande casino. Perché adesso diventa difficile distinguere quelle che sono i problemi che non sono stati risolti rispetto alle nuove norme, cioè la riduzione dell'aerodinamica, le gomme slick, il famigerato KERS, e quanto invece è imputabile a questo famigerato diffusore, cioè questo estrattore posteriore dell'aria, che essendo leggermente ingrandito, perché i tecnici, Brown in particolare, hanno trovato il modo di sfruttare un sfogo, e quindi questo dà una maggiore deportanza, quindi la macchina è coerente. Tant'è vero che nelle prove di oggi il responsabile tecnico della FIA, che aveva provato comunque questa modifica, e responsabile anche della sicurezza, ha controllato le velocità, e la cosa interessante è che queste macchine vanno leggermente più veloce sulla curva e sono decisamente più lente in rettilineo. Tant'è vero che tutto il gruppo, diciamo col diffusore irregolare, è tra il 12° e il 18° posto nelle velocità massime. Il più veloce è Buemi, che è un debuttante, a 308,7 come velocità di punta, mentre il più veloce, che è Rosberg, degli irregolari, chiamiamoli così, fa 304. Sì. Quindi se fanno questi tempi vuol dire effettivamente che in curva vanno più veloce. L'altra cosa interessante è che tutti hanno detto che saranno partiti con meno benzina, pesavano 10 kg più della Ferrari, quindi credo che i problemi veri bisogna andarli a trovare nelle soluzioni che si sono scelte per il nuovo regolamento per quello che riguarda soprattutto l'aerodinamica. Tant'è vero che poi il reclamo escluso poi dalla Toyota era imputato alla larghezza dell'alettone anteriore della Ferrari, e nello stesso tempo le Toyota sono state arretrate perché l'alettone posteriore fletteva troppo. Sì. Ora c'è sempre la norma che, salvo l'alettone anteriore, che adesso può essere modificato per un complesso di 6 gradi, 3 in più, 3 in meno come incidenza, l'alettone posteriore dovrebbe continuare a essere rigido, anche che noi sappiamo che da anni ad altissima velocità questo materiale, che ha la memoria di forma, si mette in posizione aerodinamica più utile per la velocità, e poi quando si rallenta torna ad assumere la sua forma originaria, che è quella di caricare le gomme. Comunque, al di là di tutti questi problemi tecnici, io penso innanzitutto che Ecclestone sta ridendo come un matto, perché vede che questa fotta nata contro di lui per riuscire a strappargli i quattrini già è frantumata da queste discussioni. Poi Dore si arrabbia con Brown, dice come lui è il consulente tecnico della FOTA, cioè dell'associazione di team, e doveva dirci come stavano le cose. Ha fatto male Brown accettare questo incarico, ma pretendere che faccia la spia di se stesso per andare a raccontare agli altri cosa ha trovato? Certo. E dove l'ha trovata, tra l'altro? Anche questa è una chicca, se così si può dire. Nella galleria del vento della Fondmetal a Casumaro di Cento, provincia di Ferrara, il cui direttore è l'ingegner Mijot, francese, ingegnere aerodinamico, che ha lavorato alla Tyrrell, alla Renault, alla Ferrari, tra l'altro, due volte è andato e venuto alla Ferrari. Quindi io sono convinto che scrivano di questa modifica, è solo che alcuni hanno ritenuto che non fosse appunto regolare. Certo. Effettivamente. Quindi il vecchio Ross si è messo i segreti della cartella, dice al Briatore stia attento a come parla e ovviamente non ha fatto la spia di se stesso, si è tenuto tutto in cartella. I grandi team senz'altro riusciranno ad adeguarsi, ma gli costerà un mucchio di soldi e un bel po' di tempo. Eh beh sì, un po' di tempo sì, perché è già una struttura abbastanza consistente, teoricamente bisognerebbe fare le prove di crash di nuovo, insomma è una cosa abbastanza complicata. Io che sono malizioso penso che verrà squalificata la vettura con il nuovo diffusore se Ecclestone troverà un accordo con i top team sui quattrini, viceversa verrà approvato se lui deve fare un dispetto a questi qua. Mi sbaglierò, credo che sotto sotto, come sempre, ci sono poi tutte queste manovre politiche, perché non dimentichiamoci che questo asse è Mosley nasce appunto dal desiderio di Mosley di riuscire a farsi rieleggere e dal desiderio di Ecclestone di tirare fuori il meno soldi possibile. Sì. Quindi la foto era nata appunto solamente per questioni di quattrini, non per discorsi tecnici, perché con i discorsi tecnici si rifà. Però venendo alla corsa, io credo che la Ferrari comunque sia abbastanza ben messa, perché oltre ad aver recuperato qualche posizione, non dimentichiamoci che le vetture, come quelle due che sono in testa, con questo maggior carico che ha nelle curve, probabilmente deteriorano di più le gomme soft. Quindi è probabile che sull'arco della gara la Ferrari abbia, dato che la McLaren praticamente non conta, gli altri sommato sono dietro, tranne la BMW, ecco, Vettel con Red Bull e Kubica sono davanti, però insomma io le Ferrari non le vedo così male come sembra. Sì, infatti c'è un moderato ottimismo, ma c'era anche ieri, dopo delle prime prove andate piuttosto male, c'era un moderato ottimismo nel clan Ferrari. Caro Mario Poltroniere, preparati con pazienza, perché tra oggi e domani ci chiameranno in tanti per parlare di Formula 1 e magari di questo volpone di Ross Brawn, di cui oggi peraltro c'è un magnifico ritratto sulla stampa. E si scrive tra le altre cose: conclusa l'era Schumacher, si era preso un anno sabbatico Ross Brawn e si era dedicato alla pesca alla mosca e al giardinaggio, poi ha pescato questa nuova scuderia e adesso ci divertiamo. Stefano da Imperia, buongiorno. Pronto, buongiorno, salve. Dica. Grazie innanzitutto per la possibilità di parlare. Senta, io sono un semplice tifoso, non sono un tecnico, quindi non mi posso addentrare nei meandri tecnici come voi esperti. Però volevo semplicemente dire una cosa: se l'intenzione della foto di Ecclestone, di Ross Brawn, era quello di rendere più appassionante il campionato mondiale di Formula 1, dal mio punto di vista, penso anche dal punto di vista di alcune altre persone, è l'esatto opposto. Perché io vorrei una risposta da voi. Come può una persona, un semplice tifoso appassionato, alzarsi domani mattina alle 8 per guardare un Gran Premio di Formula 1 che nel 90% della sua svolgimento non avrà un sorpasso che uno, e che oltretutto adesso dovrà aspettare praticamente questi primi due Gran Premi dovranno essere sub giudice, bisognerà vedere che cosa decide, quindi il risultato di domani non ha proprio nessun senso, perché potrebbe arrivare una sentenza che... Allora, in una parola, Stefano, la parola giusta è credibilità. Poi se parliamo di incertezza, questo è un altro discorso, perché comunque agonisticamente l'incertezza nasce già dalle prove, che poi magari siano risultati di fasulli, che sia carta straccia, questo è un altro discorso, però dal punto di vista credibilità è indubbio che gli ultimi 20 giorni che hanno preceduto questo mondiale abbiano raso al suolo quel poco che c'era. Mario? Io stesso mi domando com'è possibile che si sia arrivati a questo punto quando già nelle pre-prove si aveva chiara la situazione. Quindi diciamo comunque che i costruttori hanno fatto resistenza alle modifiche regolamentari, che erano particolarmente incisive, perché la riduzione del 30, forse più del 30% di aerodinamica vuol dire riprogettare praticamente un'altra automobile, non modificare via quelle che si sono fatte nel passato. Primo. Secondo, ritornare dopo tanti anni alle gomme slick, anche questo comportava studio notevole. Per giunta, con le gomme slittero si sono trovati anche nel problema che adesso, e questo come dicevo sarà un grosso problema per quelli diciamo del diffusore contestato, la differenza tra la gomma slick dura e la gomma slick super soft è così alta che nel caso specifico delle vetture col diffusore probabilmente avranno dei consumi superiori, quindi anche può incidere sulla gara, ma è evidente, ha ragione lo spettatore, come fa uno a capire qualche cosa di questo campionato? È una cosa incredibile, andava affrontato, secondo me, chiarendolo. Però Carlo, ritorno al vecchio discorso, questa Formula 1 che sta avvolgendosi su se stessa, se non hanno il coraggio di ripensarla internamente, ed è difficile perché il business è grosso e quindi non si può tirare via la mattonella, crolla tutto, non lo risolveranno mai, perché la Formula 1, e adesso la storia del KERS, che non è stata poi felicissima, hanno capito che devono fare qualcosa di utile per la vettura stradale, e per fare qualcosa di utile per la vettura stradale tutte queste modifiche non interessano assolutamente, certo, perché l'aerodinamica, poca o molta che sia, nella vettura stradale non incide quasi niente. Quindi aveva ragione un mio amico, il vecchio Giorgio Piola, che diceva, che diceva bisogna fare un parallelepipedo, metterci quattro ruote agli angoli, qui dentro uno fa quello che vuole, noi gli diamo una certa quantità di energia, chi è bravo si va più lontano. Questo è il discorso dal quale si deve partire, soprattutto oggi che abbiamo problemi di liquidamento, del riciclaggio di materiali, eccetera. Quindi, come dico, lo spettatore ha ragione, ma sono i gestori di questo sport che non riescono a mettersi d'accordo. Perché? Perché ciascuno naturalmente difende il proprio ticello, che fino adesso ha affrontato. È chiaro. Però la credibilità, ripeto, è ridotta a... è rasa al suolo la credibilità della Formula 1 in questo momento. Poi domani si accendono i motori, magari subentrano anche altri discorsi, però con gli ultimi 20 giorni che abbiamo vissuto l'ascoltatore non ha torto. Come si fa domani mattina, tra l'altro cambia anche l'ora, puntare la sveglia alle 8 che sarebbero le 7 per guardare una corsa che comunque vada probabilmente non dice la verità, la verità fino in fondo, no? Tra l'altro è venuto fuori anche che con questo orario la corsa, cominciando alle 17, mette i piloti nella condizione di avere un lungo tratto con il sole basso, che toglie visibilità. Questo è già pericoloso, non solo, ma è una fase di abbassamento della temperatura, quindi anche lì è difficile riuscire a calcolare quando bisogna cambiare le gomme. Perché devono riuscire ad andare subito in temperatura, insomma ci sono molti problemi, questi non li prendono in considerazione. Perché? Perché secondo te, perché ha deciso di fare quell'ora? Perché dopo aver detto che noi siamo il terzo mondo in Europa, che bisogna andare all'est perché si prendono i soldi, eccetera, poi si è accorto che gli sponsor e i clienti che sono in Europa non gradivano il fatto che bisogna andare a quell'ora, e quindi tu cosa dici? Questa operazione. La Ferrari non è indonesiana, mi risulta nemmeno la Mercedes non abbia sede in Kuala Lumpur, ecco. Stefano Rimini, buongiorno. Buongiorno, mi avete un po' anticipato, comunque la credibilità è a zero, è uno sport ormai in cui la politica la fa da padrona. Poi io non capisco una cosa, per quale motivo ogni volta che un ingegnere ha un'idea bisogna sempre tagliargli le gambe? Cioè, allora facciamo una monomarca. Lei ha ragione, sono curioso. È una cosa veramente schifosa. La Toyota è entrata in Formula 1, si sapeva che stava sviluppando i 12 cilindri, tutti gli altri si sono riuniti e hanno cambiato il regolamento. Allora io sinceramente vado a vedere la Formula 1 e anche le moto dai tempi di Villeneuve, Gilles, di Agostini, Lucchinelli, eccetera, ma io non li guardo più questi sport perché non sono più sport. Cioè il pilota, la squadra è veramente una cosa scandalosa. C'è qualcuno che lo guarda, eppure io sono appassionato, però io non lo guardo più, quindi secondo me è una roba assolutamente... Io rimarrei sulla prima parte della sua considerazione, che io condivido. Abbiamo ancora un minuto di tempo, sentiamo Mario Poltronieri. Ma la questione del regolamento, effettivamente... Ma la questione delle idee, Mario. Se uno ha un'idea, questa dei diffusori o estrattori o quello che è considerabile un'idea tecnica, una trovata tecnica, no? Perché penalizzarla? Una trovata tecnica specifica per questi attrezzi per correre, come chiamo io le automobili da corsa di Formula 1. Ma come diceva lo spettatore, non possiamo fare le vetture tutte uguali, giustissimo, a parte che questo campionato era nato come campionato piloti, quindi pensiamo al caso di Barrichello che era giubilato e adesso ha una macchina con la quale potrebbe tornare a vincere. Quindi se noi rispettiamo il concetto del campionato piloti, non è tanto importante fare le vetture diverse, ma il campionato costruttori è diventato più importante perché è quello che distribuisce i soldi, mentre alla casa tenere e preoccuparsi del pilota che vince il titolo mondiale interessa fino a un certo punto, perché come succede nel calcio, questo prende il numero uno poi va in un'altra squadra. Quindi ci sono dei problemi che contrastano, ma la politica di Mosley, tanto criticata, e non dimentichiamoci che Mosley fu uno dei quattro che nel 70 fece la March, perché la M di March è appunto Mosley, quindi è uno che si intende dal punto di vista tecnico e viene dalla cultura inglese, quella che Ferrari chiamava gli assemblatori, che è quella di prendere il motore dall'uno, la sospensione dall'altro, il cambio da un terzo e così via, e mettere insieme le macchine, chi è più bravo poi correndo a vincere, tanto meglio. Infatti abbiamo avuto i piloti costruttori. Certo, ma sono tutte componenti da considerare in questa formula casino. Mai termine mi è sembrato più azzeccato. Mario, non prendere impegni domani, alle 5 ci sentiamo e vedrai che avremo un sacco di cose da dire anche ai nostri amici ascoltatori. Sentiamo domani, Mario. Grazie davvero a Mario Poltronieri, naturalmente domani 17:19 rimane l'orario del nostro programma, anche se non c'è la Serie A, però Formula 1 su tutto, poi nazionale eccetera, avremo un sacco di cose da raccontarci. Adesso ci salutiamo, grazie a Gigi Borghi in redazione, a Giacomo Spunta in regia, buona serata a tutti.